la buona notizia è che gli studi scientifici dimostrano che il passaggio dall'ora legale all'ora solare riduce il lunedì successivo al cambio, cioè oggi, sensibilmente l'incidenza degli infarti, gli infarti del cuore. Uno penserebbe, ma dormo un'ora in più, mi alzo con meno nervi. Questa è in parte la spiegazione. C'è un antefatto, noi dormiamo 2 ore meno rispetto a 100 anni fa e soprattutto, cosa grave, facciamo quello che si chiama social jet lag, cioè noi spostiamo le nostre 7 ore di sonno che siano quando noi vogliamo e non sono invece le ore di sonno previste dai nostri ritmi biologici. Tanto più noi ci allontaniamo dall'orario previsto, che sarebbe verosimilmente quello di andare a letto intorno alle 10, tanto più il nostro organismo si lamenta producendo sostanze infiammatorie e attivando la sua parte di difesa, che è il sistema nervoso simpatico. Beh, queste due circostanze unite allo stress del lunedì fanno spesso, lo sanno i cardiologi nei pronto soccorsi, impennare gli infarti. Cosa succede oggi? Abbiamo dormito un'ora in più la notte precedente e una delle più prestigiose riviste mondiali di medicina, il New England Journal of Medicine, ha autorevolmente dimostrato che il lunedì successivo al passaggio all'ora solare i soggetti hanno meno infarti. Cerchiamo di farne tesoro anche per qualche altro giorno della settimana.